Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Nell'inchiesta di Napoli entra il nome di Di Pietro, ma è il figlio. Rapporti ambigui con uno degli arrestati, dice la direzione antimafia. Tensione alle biglietterie, nuovi voli cancellati. All'aeroporto di Fiumicino si scontano ancora le conseguenze delle proteste di ieri del personale all'Italia. Prima le buone notizie, poi le cattive. Scende ancora l'Euribor, sul quale si calcolano i mutui, ma calano anche le vendite al dettaglio, meno 0,7%. È pronta l'OPEC del metano. L'era del gas a buon mercato, dice Putin, è finita. Chi sostituisce Ennio Morricone nel CDA dell'Opera di Roma? Bruno Vespa. La scelta di Bondi solleva la polemica. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Simone Spezia. Dunque, nell'inchiesta di Napoli emerge anche un presunto tentativo di ricatto ai danni del figlio di Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori ed ex ministro. Secondo la relazione della direzione investigativa antimafia, l'ex provveditore alle opere pubbliche Maurizio Mautone, ora agli arresti domiciliari, avrebbe avuto con Cristiano Di Pietro dei rapporti alquanto ambigui. Laura Viggiano da Napoli, buongiorno. Innanzitutto andiamo a vedere come si procede sul fronte giudiziario oggi, che cosa sta succedendo in procura. Sì, buongiorno. Oggi c'è un secondo interrogatorio per il principale degli indagati del Global Service, dell'inchiesta sul Global Service a Napoli, cioè Alfredo Romeo, l'unico dei 13 indagati in carcere. Era stato richiesto in realtà nel primo interrogatorio di garanzia dai suoi legali un secondo colloquio con il GIP e i magistrati titolari dell'inchiesta per spiegare dei punti ulteriori non affrontati in 5 ore di colloquio giovedì scorso, durante le quali Romeo aveva provato a convincere i magistrati di essere completamente estranei e che non esiste questo sistema Romeo ipotizzato dagli inquirenti, e aveva provato a spiegare anche i suoi rapporti con i rappresentanti istituzionali, in particolare quelli del comune di Napoli, sostenendo tra l'altro che una delle sue aspirazioni era quella di diventare un grande consulente del comune dopo aver gestito già il patrimonio comunale. Laura, e invece la vicenda di Pietro esattamente che cosa consiste a questo punto? La vicenda di Pietro ovviamente chiama in causa il figlio Cristiano della leader, quindi della IDD, e alcuni rappresentanti anche ex parlamentari del partito. Sostanzialmente è una sorta di intreccio tra tentativi di ricatto e toni da ricatto. Ci sono intercettazioni in cui si ascolta la moglie dell'ex provveditore delle opere pubbliche della campagna del Molise, attualmente agli arresti domiciliari, Mario Mautone, che suggerisce al marito appunto di buttarla sul ricatto con il figlio, dice è l'unico sistema. E intanto ci sono altre intercettazioni in cui i piaceri, le segnalazioni per l'affidamento di incarico a professionisti oppure per indicare dei fornitori per appalti vengono fatte direttamente da Cristiano Di Pietro o comunque da rappresentanti del partito dell'Italia dei Valori, sostenendo che si tratta di persone che vanno tenute ovviamente in conto e che non possono prendersi collera perché amiche di Cristiano. Perfetto, perfetto. Laura Viggiano, grazie. Laura Viggiano in collegamento da Napoli. La reazione di Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, poco fa al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Le intercettazioni sono uno strumento necessario per le indagini e chi come me non ha nulla da temere dice ai magistrati andate avanti con il vostro lavoro, anche quelli di Napoli che vogliono accertare eventuali comportamenti miei o della mia famiglia. Da politico dico non c'è figlio che tenga, deve essere accertato tutto perché chi non ha nulla da temere come noi ha soltanto bisogno di verità. E poi se permette, da ministro sono orgoglioso di aver attuato anche lì quel che ho sempre fatto nella mia vita. Quando c'è qualche posizione chiacchierata o non trasparente è meglio prevenire che rincorrere. Ho disposto dei trasferimenti di funzionari e dirigenti, la maggior parte, quasi tutti, a rotazione, e ho cominciato a farlo dai cosiddetti uffici più caldi, perché laddove il chiacchiericcio mette in condizione tale per cui è bene prevenire situazioni di contiguità, è dovere di chi ha la responsabilità di farlo, quindi sono orgoglioso di averlo fatto. È chiaro che cercare di fermare l'azione dell'Italia dei Valori interessa a tutti, sia alla politica dell'opposizione, sia alla politica degli alleati che si sentono un po' in difficoltà a venirci dietro. Vorrebbero che anche noi entrassimo dentro quel meccanismo della politica paludata che dice che la colpa di quel che accade dei magistrati che fanno le loro indagini o dell'informazione che fa le loro pubblicazioni. L'informazione faccia il proprio dovere e informi di tutto. I magistrati facciano il proprio dovere e vadano avanti fino in fondo. Questo dunque Antonio Di Pietro sul coinvolgimento, il nome del figlio che è circolato, circola nelle inchieste napoletane. Adesso invece ci occupiamo della vicenda Alitalia, perché a Roma ci sono ancora centinaia di passeggeri all'aeroporto di Fiumicino dopo le assemblee spontanee dei lavoratori di ieri, assemblee sospese, ma i disagi ci sono ancora oggi. A Fiumicino il personale Alitalia di terra è tornato al proprio posto, ma non si può dire lo stesso per i circa 5.000 passeggeri che da ieri sera sono fermi allo scalo. Dopo una notte all'aeroporto, con cibo e coperte forniti dalla Protezione Civile, si sono presentati alle biglietterie all'alba per trovare un aereo che almeno oggi li portasse a destinazione. Di assemblee improvvise dei lavoratori, per ora, non se ne parla, anche perché l'ordine di precettazione arrivato ieri è stato accettato, una misura disposta dal ministro dei trasporti Matteoli, ma partita dal presidente della commissione di garanzia sugli scioperi, Antonio Martone, che spiega a Radio 24 cosa rischiano i dipendenti che non seguiranno l'ordine ministeriale. Il lavoratore che non si attiene all'ordinanza di precettazione è sanzionato direttamente con una sanzione pecuniaria amministrativa di 1.000.000 lire, quindi 526 quante euro, per ogni giorno in cui non si attiene all'ordinanza di precettazione. I sindacati di base hanno indetto le assemblee perché, dicono, la CAI non sta mantenendo le promesse fatte 3 mesi fa sulle nuove assunzioni. Oggi pomeriggio ci sarà un altro incontro fra i vertici dell'azienda e le rappresentanze, ma le cose sembrano procedere bene. Intanto i passeggeri possono consolarsi con poco, come spiega ancora Antonio Martone. Hanno diritto naturalmente, oltre che il rimborso dei biglietti e così via, poi hanno diritto, se sono dovuti restare, l'azienda dovrebbe anche ospitarli in albergo per l'attesa del volo successivo, e poi hanno diritto a una somma, se il volo è oltre 1.000 chilometri, 400 euro e così via. Marco Lignana, GR24, Il Sole 24 Ore. Una storia infinita dunque quella di Alitalia, ma di storie infinite il paese ne è pieno, anche più crude e più tristi, Alessio. Sì, come quella per esempio della strage sul Rapido 904, a 24 anni di distanza ancora nessuna giustizia. Il commento di Daniele Biacchessi. 23 dicembre 1984, mancano 2 giorni a Natale. Il Rapido 904 è come un mulo. Di chilometri deve averne fatti molti prima di quella sera. Il Napoli-Milano trasporta persone che intendono passare il Natale con i loro familiari. Sta imboccando la galleria che collega Vernio a San Benedetto Val di Sambro. 18 chilometri, la più lunga d'Italia. Siamo già in provincia di Bologna. Antonio Calabrò, testimone. Si interruppe il video, dissero c'è un'edizione straordinaria per un incidente che è successo, e quindi apparì Bruno Vespa. L'esplosione che stasera alle 19.15 ha squarciato una vettura di coda del Rapido Napoli-Milano a metà della galleria direttissima tra Firenze e Bologna. Si tratta quindi quasi con certezza purtroppo di un attentato. Un mattatoio, 15 morti, 267 feriti. Di notte nella piccola stazione di San Benedetto altri testimoni raccontano. Beh, io ero lì seduto, a un certo momento ho visto una grossa, un grosso lampo e naturalmente ho sentito poi il sangue che mi scorreva sulla faccia. C'era un capotreno che diceva avanti, avanti signore, tutti quanti, raggiungete il vagone ristorante. 24 anni dopo, per la strage sul 904, nessuna giustizia. 24 anni dopo, l'Associazione dei familiari delle vittime, in gran parte napoletani, chiede oggi alla Commissione Antimafia, ai sensi della legge costitutiva 132 del 2008, di indagare sull'intreccio politico-mafioso che fu la causa della strage, di far luce sui mandanti occulti e gli esecutori, anche in riferimento alle nuove dichiarazioni di pentiti di boss della Camorra. Forse un paese civile dovrebbe dare loro risposte. È polemica a Roma per la decisione di affidare a Bruno Vespa l'incarico di rappresentare il ministero nel CDA del Teatro dell'Opera. Sarà Bruno Vespa il rappresentante del Ministero dei Beni Culturali nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, dopo le dimissioni di Ennio Morricone. L'annuncio del ministro Sandro Bondi ha creato qualche polemica. Lascia stupiti, dice Manuela Ghizzoni, capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Cultura della Camera, che annuncia un'interrogazione al ministro. Non c'era nell'ambiente della musica italiana, si chiede la Ghizzoni, nessun'altra personalità di livello? Eppure, come fa notare il ministero e ha sottolineato lo stesso Vespa, la riforma di Veltroni non prevedeva che nei CDA degli enti musicali ci fossero dei musicisti. Non lo sono Fiorenzo Tagliabue alla Scala o Franca Coina alla Fenice. A Palermo il ministero è rappresentato da un avvocato dello Stato, a Genova da un editore, presso l'Accademia di Santa Cecilia da un commercialista. Qualcuno forse ha dimenticato poi che Francesco Rutelli nominò rappresentante del ministero all'Arena di Verona una cantante, sì, ma non lirica, cioè Gigliola Cinquetti, la carta vincente di Vespa? Secondo il sottosegretario ai beni culturali Francesco Maria Giro, il Teatro dell'Opera si potrà avvalere di una risorsa in più sul versante della comunicazione. Infatti, ci chiediamo noi, nei giorni in cui ad esempio presenta ovunque il suo libro, chi sa comunicare in maniera più efficace e capillare dell'onnipresente Vespa? Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Chissà quanti di voi ci staranno ascoltando dalle stazioni sciistiche o insomma, o magari in viaggio, magari, magari su una macchina in fila da qualche parte, insomma. Però il sogno è quello, insomma, la meta d'arrivo è quella. Allora, le attrezzature più adatte ad affrontare la neve, la segnaletica che deve essere apposta sulle piste e anche un decalogo del provetto sciatore. È un vero e proprio vademecum per chi pratica gli sport invernali. La guida arriva alla neve, usate la testa, realizzata dall'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Sentiamo. La novità di quest'anno riguarda i caschi protettivi che i minori di 14 anni devono obbligatoriamente indossare sulle piste. Accanto al vecchio casco, ora definito di classe A e dedicato a chi pratica lo sci in maniera agonistica, ne è stato infatti introdotto un nuovo tipo, quello di classe B, per chi scia in maniera meno impegnativa. Il primo garantisce maggiore sicurezza, coprendo una parte più ampia della testa, mentre il secondo, proteggendo un'area più ristretta, è più leggero e con una migliore ventilazione. I consigli di Alberto Monteverdi, responsabile comunicazione dell'UNI. Ma direi che se ha già un casco in casa, di guardare all'interno se c'è l'indicazione della norma di sicurezza che prevede come devono essere fatti questi caschi, cioè la sigla EN1077, e poi fare sempre attenzione quando è sulle piste che le piste siano segnalate, cioè abbiano proprio i segnali un po' come se fossero delle strade, perché il segnale ci dice cosa sta per succedere sulla pista che stiamo percorrendo in quel momento e ci aiuta a sciare molto più sicuramente. La guida Arriva la neve, usate la testa è scaricabile in formato elettronico dal sito dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione www.uni.com. Paolo Scandale, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 15 minuti, GR Extra Large, le notizie di oggi. All'Italia situazione difficile ancora oggi a Fiumicino, dove in conseguenza delle assemblee spontanee di ieri, poi sospese, sono stati cancellati finora 25 voli, di cui 8 in partenza. Ma i lavoratori ora sono al loro posto, dopo l'ordine di precettazione partito ieri da Antonio Martone, presidente della commissione di garanzia sugli scioperi. Sentiamolo. Se c'è un sindacato che organizza questa situazione, possiamo arrivare a applicargli 25.000 euro di sanzione. Per quanto riguarda i lavoratori, possiamo soltanto prescrivere al datore di lavoro di iniziare dei procedimenti disciplinari. Però la legge dà una possibilità, vale a dire chiedere al ministro e al prefetto, secondo l'ambito dell'astensione, di ricorrere alla precettazione. Calano le vendite al dettaglio ad ottobre, meno 0,7% su base annua, lo comunica l'Istat. Il calo più vistoso, meno 1,6%, viene fatto registrare dai prodotti non alimentari, a fronte di un aumento dello 0,7% di quelli alimentari. A soffrire di più sono stati i piccoli esercizi, con un calo delle vendite dell'1,7%. Tengono invece la grande distribuzione e i discount. Per la settimana corta gli strumenti normativi ci sono già. Lo ribadisce il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. Novità, ha chiarito il ministro, è la volontà politica di consentire l'uso responsabile degli ammortizzatori sociali. Dopo l'apertura di Epifani della CGIL, Angeletti della UIL dice va bene, ma su base volontaria. L'unica cosa che posso dire è buon lavoro ai magistrati. Quando non si ha nulla da temere, non si ha paura delle indagini. Così Antonio Di Pietro risponde sul contenuto delle intercettazioni che riguardano suo figlio Cristiano. Nell'inchiesta di Napoli emerge infatti anche un presunto tentativo di ricatti ai danni di Cristiano Di Pietro. Secondo la direzione investigativa antimafia, l'ex provveditore alle opere pubbliche Maurizio Mautone, ora agli arresti domiciliari, avrebbe avuto con Christian Di Pietro dei rapporti alquanto ambigui. Di Pietro Junior gli avrebbe chiesto di affidare incarichi a persone a lui segnalate. Il caso Soru verso una risoluzione oggi in Sardegna, il dibattito conclusivo dopo il vertice distensivo con la sua maggioranza e dopo le dimissioni del presidente della regione. Se Soru non torna sui suoi passi entro dopodomani, si andrà al voto anticipato. Una donna di 47 anni, i suoi due figli di 18 e 14 sono morti ieri sera, intrappolati nell'auto su cui viaggiavano, finita in un torrente a Terme Vigliatore nel Messinese. Stavano facendo ritorno a casa quando l'auto è caduta in un tratto di strada che aveva ceduto nelle scorse settimane per il maltempo. La procura ha aperto un'inchiesta. A poche ore dalla morte del presidente Lansana Conté, al potere in Guinea da 24 anni, un capitano delle forze armate legge un comunicato alla radio in cui si annuncia la dissoluzione del governo e delle istituzioni. Sospesa la Costituzione, il militare ha detto che verrà creato un consiglio consultivo di militari e civili. Colpi d'arma da fuoco contro un furgone della polizia, nessun agente è stato ferito. In Grecia è ancora attenzione dopo la morte il 6 dicembre scorso ad Atene di un ragazzo di 15 anni ucciso da un poliziotto. L'indagine sul nuovo episodio è stata affidata all'antiterrorismo. È la prima missione navale cinese dopo più di 600 anni. Tre navi da guerra di Pechino partiranno venerdì verso le coste somale per contrastare la pirateria. E ci occupiamo ora della cosiddetta settimana corta. Lavorare meno pur di lavorare tutti è infatti la proposta del ministro del welfare Maurizio Sacconi, che ha parlato di settimana corta proprio per superare la crisi economica. Il governo ha incassato il sì con riserve del leader della CGIL Guglielmo Epifani, che ha sottolineato però il bisogno di risorse più rilevanti per i lavoratori. Un parziale sì arriva anche da Confindustria, ma per il presidente Emma Marcegaglia servono anche altre misure per le imprese. L'idea lanciata dal ministro Sacconi di adottare anche in Italia la settimana corta alla tedesca non dispiace ai sindacati e alle imprese, ma da entrambi i fronti arrivano richieste di inserire il progetto in un quadro più ampio che riguardi il complesso degli ammortizzatori sociali. Ieri il vicepresidente di Confindustria Bombassei e il leader della CGIL Epifani avevano concordato sull'obiettivo finale, salvaguardare il legame tra aziende e lavoratori ed evitare la perdita di posti di lavoro. Oggi il segretario della UIL, Luigi Angeletti, si dice d'accordo, ma sulla settimana corta pone alcune condizioni. Siccome si parla anche di riduzioni di salario, la cosa non può che essere fatta volontariamente. Queste intese debbono essere raggiunte in primo luogo nei posti di lavoro. Il secondo motivo è che ci deve essere un accordo tra le parti proprio nei posti di lavoro. E le persone che verrebbero sospese temporaneamente dal lavoro devono avere ovviamente un sussidio in cui una parte consistente sia un sussidio pubblico. E pensando al futuro, pensando al dopo, occorre fare in modo che le risorse disponibili siano anche finalizzate alla formazione professionale. Ma ancora non basta, dice Angeletti. Bisogna anche pensare ai precari, estendendo la cassa integrazione a tutti i contratti e a tutte le aziende, comprese quelle piccole. E per evitare che la crisi precipiti occorre che il governo realizzi in fretta quanto promesso. Investimenti. Devono sul serio spendere i soldi che dicono di avere a disposizione sia nazionali che comunitari. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E come ricordato dal nostro Paolo Piacenza, naturalmente la posizione di Confindustria è stata espressa da Alberto Bombassei, il vicepresidente, non da Emma Marcegaglia. E su questa vicenda sentiamo il commento di Carlo Della Ringa, che è professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Della Ringa è intervenuto questa mattina Radio 24, intervistato dal nostro direttore Gianfranco Fabi. Certamente questo strumento non va enfatizzato più di tanto, perché rappresenterà uno dei possibili strumenti di intervento. Infatti questo si differenzia sia dal vecchio slogan lavorare meno, lavorare tutti. Quello slogan diceva ridurre l'orario di lavoro per tutti indistintamente. No, qui si parla di esperienze aziendali, di accordi aziendali. Laddove serve si può mettere in pratica questo strumento. Poi non è l'unico, c'è anche la cassa integrazione. Allora bisogna dire In che cosa possono distinguersi i contratti di solidarietà dalla cassa integrazione? I contratti di solidarietà si avvicinano proprio a quello che hanno fatto i tedeschi, cioè nell'ambito di un'impresa si riduce l'orario in modo generalizzato. Potrebbe voler dire settimana corta, ma anche mese corto, anno corto, ma per tutti. Invece la cassa integrazione è uno strumento più flessibile per le aziende, perché può essere utilizzato per ridurre l'attività laddove, in quei comparti, per quelle categorie di lavoratori per i quali si registra una diminuzione di attività. Ecco perché le imprese stanno dicendo sì, va bene settimana corta, ma uno dei possibili interventi, ricordiamoci poi che le esigenze aziendali possono essere anche di tipo diverso. Ed era Carlo Della Ringa, professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Rientra la minaccia di dimissioni del capo della Protezione Civile. Parlando coi giornalisti questa mattina a Foligno, Guido Bertolaso ha infatti reso noto che i fondi per i quali erano stati annunciati i tagli sono stati ripristinati con rapidità, anche se non in modo equivalente, ha detto Bertolaso. Questo ci consente di lavorare con serenità e andare avanti con il nostro programma. Bertolaso ha quindi spiegato la sua minaccia di dimettersi con la grande preoccupazione per i tagli annunciati proprio al comparto. E a proposito di dimissioni, siamo al caso del governatore della Sardegna, Renato Soru. Oggi dibattito conclusivo dopo il vertice distensivo con la sua maggioranza. Se Soru non torna sui suoi passi, si andrà al voto anticipato. In Sardegna ancora non c'è una soluzione alla crisi politica. Il dibattito ieri in Consiglio regionale sulle dimissioni del governatore Renato Soru è slittato ad oggi, con le trattative continuate fino a tarda notte. Se Soru confermerà la sua decisione, le elezioni anticipate saranno il 15 o il 22 febbraio ed è probabile una sua ricandidatura. La scorsa settimana l'imprenditore ha risolto il conflitto di interessi, come previsto da una norma sarda, nominando un fiduciario per le sue aziende, Tiscali e l'Unità, di cui è diventato editore a luglio. Eppure nella crisi si è aperto uno spiraglio per il ritiro delle dimissioni. Soru ha infatti incontrato i capigruppo della maggioranza di centrosinistra ed è stato elaborato un documento unitario per rilanciare il progetto della giunta. Tra i punti chiave, il via libera al piano paesaggistico, lo stesso che ha causato lo strappo di Soru lo scorso novembre dopo la bocciatura di un emendamento sulle zone interne dell'isola. Il governatore, secondo la legge statutaria, ha comunque tempo fino alla vigilia di Natale, domani, per comunicare la decisione finale. Monia Melis, GR 24, Il Sole 24 Ore. Da un'isola all'altra, verrebbe voglia di dire, perché in effetti a chi capitasse ad andare in Sicilia per le vacanze, naturalmente sempre che le proteste dell'Alitalia, come abbiamo sentito poco fa, lo consentano, oppure perché invece nell'isola ci vive, vi segnaliamo una mappa turistica un po' particolare. A Palermo ci sono i negozi Pizzo Free, 324 esercizi commerciali che non pagano alla mafia la tassa di territorialità. Così la chiamano i ragazzi di Addio Pizzo, il comitato anti-racket nato 4 anni fa, quando i volontari hanno tappezzato la città siciliana di adesivi con un semplice messaggio. Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. La lista di chi ha denunciato e di chi si rifiuta di pagare si trova sulla mappa turistica creata da Addio Pizzo, come spiega il presidente dell'associazione, Raffaele Genova. L'obiettivo principale è quello di poter raggiungere il flusso turistico che arriverà a Palermo in modo tale da rappresentare un pezzo di Sicilia che va avanti indipendentemente dalla mafia e sviluppare una cultura chiara della legalità. La mappa si può consultare e scaricare anche dal sito dell'associazione www.addiopizzo.org. Dopo Napoli, che ha la sua mappa da alcune settimane, adesso Palermo, le prossime città ad aderire saranno Gela e Catania. Finora avevamo come strumento la guida al consumo critico, ora c'è anche la mappa del consumo critico in cui gli stessi imprenditori vengono rappresentati su una mappa appunto della città di Palermo in modo tale che sia più facile trovarli. Sono sempre di più i commercianti che aderiscono, ma l'attenzione di Addio Pizzo è puntata anche sui consumatori. Abbiamo pensato una campagna di consumo critico anti-pizzo partendo dal presupposto che se ogni commerciante paga con i soldi di noi cittadini consumatori con il quale viene pagato il pizzo, per essere certi che dai commercianti di cui noi andiamo, a cui vanno a finire i nostri soldi, non vadano a finire nelle tasche della mafia. Irene Privitera, GR24, Il Sole 24 Ore. Prosegue il nostro viaggio fra le tradizioni italiane legate al Natale più antiche e originali. Quella che scopriamo oggi è assolutamente unica. Ci porta in Puglia, in provincia di Brindisi. Contrario in Tokyo, ogni anno alle 6 del mattino del 24 dicembre, la Madonna bussa alla porta della Basilica Cattedrale di Oria, in provincia di Brindisi. Una tradizione natalizia unica che risale al 1800 e che viene mantenuta viva nella cittadina pugliese. Quando ancora non è sorta l'alba, i fedeli vengono richiamati dai rintocchi delle campane. È molto presto e fa freddo, ma il rito cosiddetto della Madonna Cattuzza alla porta, per la sua suggestione, è irrinunciabile. Emilio Pinto, presidente della Proloco di Oria. C'è questo momento tra pathos, fede, credenza, dove c'è la porta chiusa della chiesa e si sentono rintuzzare tre volte la Madonna bussa a questa porta. Dopo il terzo rintocco questa porta si apre, c'è la banda cittadina che accompagna l'immagine della Madonna suonando alla pastorale, mentre la Madonna viene posta su un baldacchino sull'altare maggiore. La gente di Oria si prepara così a vivere poi la notte santa, quindi c'è questo momento particolare, ripeto, di pathos e tradizione in Oria. Angelus ad Virginem subintrans in conclave, Virginis forminem de mulces inquitame. La statua è quella della Madonna del Carmine, a cui però viene tolto il bambino per simboleggiare Maria Betlemme, intenta bussare invano alle porte delle locande. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:31 minuti, GR Extra Large, le notizie di oggi. All'Italia situazione ancora difficile oggi a Fiumicino, dove come conseguenza delle assemblee spontanee di ieri, poi sospese, sono stati cancellati 25 voli, di cui 8 in partenza. Centinaia di passeggeri sono ancora bloccati nello scalo. A loro, ricorda Antonio Martone, presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi, all'Italia deve garantire una serie di diritti. I passeggeri hanno diritto, secondo la lunghezza del volo, hanno diritto naturalmente, oltre che il rimborso dei biglietti e così via, poi hanno diritto, se sono dovuti restare, l'azienda dovrebbe anche ospitarli in albergo per l'attesa del volo successivo, e poi hanno diritto a una somma, se il volo è oltre 1000 km, 400 euro e così via. Le vendite al dettaglio sono diminuite ad ottobre dello 0,7% su base annua. Lo comunica l'Istat. Il calo più vistoso, meno 1,6%, riguarda i prodotti non alimentari, a fronte di un aumento delle vendite dei prodotti alimentari, più 0,7%. A soffrire di più sono stati i piccoli esercizi, che hanno diminuito le vendite dell'1,7%, tengono invece la grande distribuzione e i discount. Per la settimana corta gli strumenti normativi ci sono già, lo ribadisce il ministro del welfare Sacconi. La novità, ha chiarito il ministro, è la volontà politica di consentire l'uso responsabile degli ammortizzatori sociali. Il leader della UIL Angeletti dice sì, ma solo su base volontaria. Sentiamo. Riferita alla questione sollevata dalla proposta di Sacconi sulla settimana corta, io faccio questa considerazione. Siccome si parla anche di riduzioni di salario, la cosa non può che essere fatta volontariamente. Non ci possono essere norme che obblighino persone a ridurre il loro reddito. L'unica cosa che posso dire è buon lavoro ai magistrati. Quando non si ha nulla da temere, non si ha paura delle indagini. Così Antonio Di Pietro risponde sul contenuto delle intercettazioni che riguardano suo figlio Cristiano. Nell'inchiesta di Napoli emerge infatti anche un presunto tentativo di ricatto ai danni di Cristiano Di Pietro. Secondo la DIA, l'ex provveditore alle opere pubbliche Maurizio Mautone, ora agli arresti domiciliari, avrebbe avuto con Cristiano Di Pietro dei rapporti alquanto ambigui, scrivono i magistrati. Di Pietro Junior gli avrebbe chiesto di affidare incarichi a persone a lui segnalate. Il contenzioso tra Russia ed Ucraina sul gas non comporterà rischi sull'approvvigionamento in Italia, lo assicura il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Intanto il presidente russo Putin avverte: l'epoca del gas a buon mercato è finita, ha detto al vertice appunto dei paesi esportatori di gas, del quale parleremo fra un attimo. Colpi d'arma da fuoco contro un furgone della polizia, nessun agente è stato ferito. In Grecia ancora tensioni dopo la morte il 6 dicembre scorso ad Atene di un ragazzo di 15 anni ucciso da un poliziotto. L'indagine sul nuovo episodio è stata affidata all'antiterrorismo. Anche la Cina scende in mare contro i pirati. 3 navi da guerra cinesi partiranno venerdì verso le coste somale per contrastare la pirateria. È la prima missione navale di Pechino dopo più di 600 anni. E adesso i dati economici di giornata. Gli stipendi dei lavoratori, secondo l'Istat, sono aumentati in novembre del 3,5% rispetto all'anno scorso. Si tratta comunque di una crescita piuttosto debole, dice l'Istituto di Ricerca, che oggi ha diffuso anche i dati relativi alle vendite al dettaglio, che sono calate dello 0,7% in ottobre rispetto ad un anno fa. Un altro calo ormai quotidiano, ma questa è una buona notizia, l'Euribor a tre mesi, che è sceso oggi al 3,02% dal 3,05% di ieri, aggiornando i minimi dal giugno 2006. Lo ricordiamo, è il tasso di riferimento per il calcolo dei mutui a tasso variabile. Il contenzioso tra Russia e Ucraina sul gas, dicevamo anche nei titoli, la dichiarazione del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola non avrà ripercussioni, non comporterà rischi sull'approvvigionamento in Italia. Queste le dichiarazioni di Scajola, che commentano la situazione di possibili rischi per la regolarità delle forniture di gas, che come sapete derivano dalla situazione dei rapporti tesi tra Russia e Ucraina. Intanto oggi summit sul metano a Mosca, la riunione dei paesi esportatori di gas. Tra questi ci sono Iran, Libia, Algeria, Venezuela, Qatar, l'obiettivo di arrivare ad un comune approccio alla formazione del prezzo del gas e la firma di uno statuto per la nascita di un'organizzazione formale che assicuri una maggiore cooperazione, di fatto un OPEC del gas. Però ci sono oggi anche le dichiarazioni del presidente russo Putin. Allora, Vladimir Sapoznikov, cominciamo proprio da qua. Che cosa ha detto Putin? Sì, buongiorno. Infatti, all'epoca delle risorse energetiche a buon stato sta per finire, lo ha dichiarato oggi il primo ministro russo Vladimir Putin alla conferenza dei ministri dell'energia dei principali paesi esportatori di gas, che si sono riuniti a Mosca per discutere di una maggiore cooperazione sul mercato internazionale. Secondo Putin, negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le spese per l'esplorazione geologica dei nuovi giacimenti, per la costruzione delle rispettive infrastrutture e dei gasdotti, mentre la crisi economica globale rischia di colpire il mercato internazionale del gas in maniera molto più grave rispetto a quello del petrolio. Vladimir, quali potrebbero essere le conseguenze sul prezzo del gas a cui faceva riferimento Putin? E poi questa OPEC dei paesi esportatori di gas, Mosca a spingere su questa strada? Sì, praticamente la Russia vuole una maggiore cooperazione per coordinare i prezzi e non permettere più gli acquisti a prezzi, diciamo, politici fortemente sovvenzionati, come stanno facendo adesso alcune repubbliche ex sovietiche, l'Ucraina e la Bielorussia. Inoltre l'intenzione del Cremlino è attirare dai paesi di transito, tra cui l'Ucraina, maggiori garanzie di sicurezza, perché se l'Ucraina non paga, come sta succedendo in questi mesi, rischiano di essere colpiti i consumatori in Europa, in primo luogo in Italia, come era già successo nel 2006. Per questo la Russia sta cercando di accelerare la costruzione dei due maxi gasdotti Nord Stream e South Stream, South Stream costruito con l'italiana Eni, per evitare il passaggio obbligatorio per il territorio ucraino. Ma il calo dei prezzi di metano sul mercato internazionale rischia di rallentare la realizzazione di questi progetti globali. Per questo Gazprom vuole una maggiore sicurezza sui prezzi. Grazie Vladimir Sapoznikov. E proprio a proposito del calo dei prezzi, che riguarda non solamente il gas naturalmente, ma anche il petrolio, che oggi sui mercati asiatici era quotato sotto i $40, insomma, questo calo dei prezzi delle materie prime energetiche sta avendo un impatto molto pesante sui paesi produttori. Allora sentiamo l'analisi di Marta Dassù. Il 2008 è stato un anno diviso in due, se guardiamo alla geopolitica. Nella prima metà abbiamo visto soltanto la corsa folle ad insù del prezzo del petrolio e del gas. Risultato: i grandi produttori di energia, i petroregimi autoritari, dalla Russia di Putin al Venezuela di Chavez, sembravano diventati i padroni del mondo. Ma poi il trend si è invertito con l'autunno nero dell'economia, il petrolio è caduto bruscamente all'ingiù e i padroni del mondo sono di nuovo quello che sono, dei regimi autoritari in grande difficoltà. La bolla della finanza ha frustrato la piazza di Mosca e le ambizioni di Putin. In pochi mesi la borsa ha perso il 70% del suo valore, mentre il rublo è sempre più deprezzato sull'euro. Conseguenza, una grande fuga di capitali che il Cremlino cerca di arginare attraverso l'alleanza con gli oligarchi. Nel frattempo comincia a soffrire sul serio anche l'economia reale. Circa 8.000 aziende sono sul punto di chiudere, provocando tensioni sociali che non si vedevano dal 1998, anno del grande default della Russia. La realtà, quindi, è che una recessione economica nata al cuore del sistema occidentale a Wall Street sta colpendo i potenziali rivali dell'America, non solo l'America. Ha fatto di più economia per tenere sotto controllo i sogni di influenza di Putin di qualunque progetto di espansione della NATO. 20 anni fa Reagan aveva provocato con i costi economici della corsa al riarmo il tracollo dell'URSS. Oggi Obama, ed è un paradosso, potrà usare gli effetti della recessione economica per tenere a bada la Russia. Ma quando l'America riprenderà, e quindi riprenderà il prezzo del barile e del gas, torneranno in vita anche i suoi rivali. È la globalizzazione, bellezza. Questa dunque è l'analisi di Marta Dassù. Salutiamo anche la nostra prossima ospite, Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno. Il nostro consueto sguardo sui giornali stranieri. Oggi, Giulia, ci porti subito in America per un'altra conseguenza della crisi, piuttosto curiosa, ma anche direi un po' inquietante. Il titolo è del New York Times, è l'economia crolla e così aumentano gli arresti per i furti nei negozi, il shoplifting in inglese, il taccheggio, diciamo noi. E la cosa naturalmente curiosa è che innanzitutto l'entità di questo aumento, più 20% rispetto allo scorso anno, e poi che è un fenomeno diffuso in tutti gli Stati Uniti, così spiega il New York Times, interpellando funzionari di polizia delle varie città, e poi che viene rubato di tutto, dalle bottiglie di sleep medication, le pillole per dormire, fino ai biglietti di auguri, cioè cose anche che non hanno prezzi alti e non sono né teppistelli né tossicodipendenti che fanno questi furti, ma semplicemente persone che hanno sempre meno soldi in tasca per le cose di prima necessità. Sì, bisognerà poi vedere se sono aumentati gli arresti o se sono aumentate le persone che rubano, perché poi le cifre vanno sempre viste da due parti. Portaci in Inghilterra, Giulia. In Inghilterra invece sul Guardian c'è questa foto stupenda dei due panda regalati dalla Cina a Taiwan che giocano nella neve, è fantastica, consiglio a tutti di andarla a vedere, però in realtà poi il Guardian ha un articolo che è molto interessante sul fatto che il Parlamento si discute molto in Gran Bretagna di come tutti i palazzi governativi debbano diventare verdi, cioè con pannelli solari eccetera, e intanto si scopre che in questo momento appunto i palazzi governativi emettono più CO2 di tutto il Kenya, che è sempre un paragone interessante perché comunque il Kenya è tra i paesi africani uno dei più sviluppati, questo naturalmente per spiegare che poi alla fine su questo problema delle emissioni l'Occidente continua ad avere delle grandi responsabilità. È vero che la Cina in un momento di grande sviluppo dovrà a sua volta tagliarle, però anche noi, dice il Guardian, dobbiamo comunque fare ancora tantissimi progressi, a cominciare dai palazzi del governo appunto. Adesso è Natale, ne parliamo anche noi, ne parla il Times con una notizia, io direi che le mamme possono tappare le orecchie ai bambini forse all'ascolto, non perché la notizia sia scabrosa, ma perché potrebbe rivelare loro qualcosa che forse non vogliono sentirsi dire, Giulia. Il Times titola: ma quando è il momento giusto per avere quella Santa talk, cioè quella piccola conversazione su Santa? Santa naturalmente è Babbo Natale, Santa sta per Santa Claus. La questione credo che tocchi un po' tutti i genitori, ma a che età dobbiamo svelare il grande? Un po' come spiegare come nascono i bambini. Esatto. E naturalmente vabbè, ci sono vari psicologi che dicono la loro e tutti pensano che intorno agli 8-9 anni sia più che sufficiente come piccolo paradiso per i bambini in cui credono ancora in questa favola di Babbo Natale. Poi bisogna un po' aprirgli gli occhi. Quindi fissiamoci quest'età, 8-9 anni. Sì, piccola nota di cronachetta italiana, ci sono state grandi proteste a Novara nei confronti di un parroco, Don Dino Bottino, che ha messo i bimbi di fronte alla realtà durante la messa dello scorso 7 dicembre dicendo appunto che Babbo Natale non esiste, per sottolineare il fatto che appunto che il Natale è essenzialmente una festa cristiana. Ma adesso passiamo ad altro. Salutiamo Giulia Crivelli. A presto. Ciao. Grazie, Giulia. E invece torniamo per un attimo alle vicende di casa nostra, si dice così. Abbiamo già parlato di temi politici con le ripercussioni dell'inchiesta napoletana e anche il dibattito sulla cosiddetta settimana corta. Adesso invece parliamo di nuovo del governo. È più popolare di Berlusconi, parliamo di chi? O comunque è il più popolare del governo Berlusconi, insomma, lo sapete tutti, il mitico Renato Brunetta. Oggi c'è stata la sua conferenza stampa di bilancio, ne ha fatte di cose, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. 8 mesi di governo e 8 mesi di fatti, secondo il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta: trasparenza, dimezzamento delle consulenze, riduzione dei distacchi sindacali, riduzione del 45% delle assenze per malattia nella pubblica amministrazione. Questi risultati più eclatanti, secondo Brunetta, per un settore, quello della pubblica amministrazione, che per il ministro può essere fondamentale per il rilancio economico del paese. Brunetta ha ricordato anche il rinnovo del contratto di settore chiuso in soli 3 mesi. Da sottolineare per Brunetta anche il piano industriale per la digitalizzazione, che porterà l'Italia entro il 2012 alla completa diffusione della banda larga. Un messaggio infine dal ministro ai dipendenti: i 3 milioni e 650 mila lavoratori nella pubblica amministrazione sono una risorsa da utilizzare al meglio, ha detto Brunetta, senza alcun taglio. E da Roma è tutto. Grazie, grazie Vincenzo Miglietta. Adesso invece il nostro spazio dedicato ai libri. Sì, il 2008 è stato l'anno della letteratura scandinava, dicono in molti. Un nome per tutti, il giallista svedese Stieg Larsson, autore di Uomini che odiano le donne e La ragazza che giocava con il fuoco. Ma dai paesi scandinavi arrivano anche giovani scrittori molto promettenti. Non tutti nella vita vogliono stare sotto i riflettori, scelgono consapevolmente un basso profilo, decidono di essere secondi. Idolo incontrastato di chi la pensa così è Buzz Aldrin, l'astronauta americano che per secondo mise piede sulla Luna dopo Armstrong. Nessuno si ricorda di lui. Dedicato ai secondi per scelta, il bel romanzo del norvegese Johan Harstad, intitolato «Che ne è stato di te, Buzz Aldrin?», è pubblicato in Italia da Iperborea. Uno dei casi editoriali del 2008. Protagonista un ragazzo, Mattias, che ha fatto dell'essere secondo la sua regola di vita. Una storia di pura narrativa o un modo per criticare la società attuale? Sentiamo cosa ci ha risposto l'autore. È vero in parte. Più che altro è un modo per dire va bene cercare di essere famosi, va bene cercare di avere successo, però ricordiamoci che c'è un altro modo di vivere, che implica invece stare dietro le quinte. E che è quello dei vari compagni di scuola di cui magari non ricordiamo neanche il nome. Smettiamo di pensare, oh chissà come erano tristi. Accettiamo semplicemente che ci sono altri modi di affrontare la vita. Let's accept that there are different ways of dealing with life. E questo era Johan Harstad, autore di Che ne è stato di te, Buzz Aldrin, pubblicato da Iperborea. Alessandra Tedesco, Gira 24, Il Sole 24 Ore. 13:48, GR Extra Large, le notizie di oggi. La situazione è ancora difficile a Fiumicino, dove in conseguenza delle assemblee spontanee dei lavoratori Alitalia di ieri, poi sospese, sono stati cancellati 25 voli, di cui 8 in partenza, ma i lavoratori ora sono al loro posto dopo l'ordine di precettazione partito ieri da Antonio Martone, presidente della commissione di garanzia sugli scioperi. Ma cosa rischiano questi lavoratori? Sentiamo. Se c'è un sindacato che organizza questa situazione, possiamo arrivare a applicargli 25.000 euro di sanzione. Per quanto riguarda i lavoratori, possiamo soltanto prescrivere al datore di lavoro di iniziare dei procedimenti disciplinari. Però la legge dà una possibilità, vale a dire chiedere al ministro e al prefetto, secondo l'ambito dell'astensione, di ricorrere alla precettazione. Le vendite al dettaglio sono diminuite ad ottobre dello 0,7% su base annua, lo dice l'Istat. Il calo più vistoso, -1,6%, riguarda i prodotti non alimentari. A soffrire di più sono stati i piccoli esercizi, con un calo delle vendite dell'1,7%. Tengono invece grande distribuzione e discount. Caute aperture da CGIL e Confindustria, e per la settimana corta gli strumenti normativi ci sono già, dice il ministro del welfare Maurizio Sacconi. La novità, ha chiarito, è la volontà politica di consentire l'uso responsabile degli ammortizzatori sociali. Il segretario della UIL, Luigi Angeletti. Il vero dramma del nostro paese è che la capacità di spesa reale, non delle promesse, è molto bassa, troppo bassa per la contingenza che ci troviamo ad affrontare. Abbiamo bisogno sul serio di una pubblica amministrazione che funzioni in tempi europei, non italiani. Quando non si ha nulla da temere, non si ha paura delle indagini. L'unica cosa che posso dire è buon lavoro ai magistrati. Così Antonio Di Pietro risponde sul contenuto delle intercettazioni che riguardano suo figlio Cristiano. Nell'inchiesta di Napoli emerge infatti un presunto tentativo di ricatto ai danni di Cristiano Di Pietro. Secondo la DIA, l'ex provveditore alle opere pubbliche Maurizio Mautone, ora agli arresti domiciliari, avrebbe avuto con Cristiano Di Pietro dei rapporti ambigui. Di Pietro Junior gli avrebbe chiesto di affidare incarichi a persone a lui segnalate. Una donna di 47 anni e i suoi due figli di 18 e 14 sono morti ieri sera intrappolati nell'auto su cui viaggiavano, finita in un torrente a Terme Vigliatore nel Messinese. Stavano facendo ritorno a casa quando l'auto è caduta in un tratto di strada che aveva ceduto nelle scorse settimane per il maltempo. La procura ha aperto un'inchiesta. A poche ore dalla morte del presidente Lansana Conté, al potere in Guinea da 24 anni, un capitano delle forze armate legge un comunicato alla radio in cui annuncia la dissoluzione del governo e delle istituzioni. Sospesa anche la Costituzione. Il militare ha detto che verrà creato un consiglio consultivo di militari e civili. Colpi d'arma da fuoco contro un furgone della polizia. Nessun agente è stato ferito. In Grecia ancora tensioni dopo la morte il 6 dicembre ad Atene di un ragazzo di 15 anni ucciso da un poliziotto. L'indagine sul nuovo episodio è stata affidata all'antiterrorismo. E adesso ci occupiamo della questione di cui abbiamo parlato spesso, della pirateria lungo le coste somale. Che succede però? Che si mobilita e scende in mare anche la Cina, con sei navi militari che vengono proprio dalla Cina, e per la prima volta questo accade in alcuni secoli di storia. Tre navi da guerra cinesi partiranno venerdì prossimo alla volta del Golfo di Aden. È la prima missione navale militare dei cinesi fuori dal loro bacino di influenza in centinaia di anni. L'obiettivo è proteggere imbarcazioni e personale cinese dagli attacchi dei pirati che operano al largo delle coste della Somalia. Il sequestro più clamoroso del 2008 è stato quello di una petroliera saudita con un carico da 100 milioni di dollari. Ma anche Pechino ha subito perdite, 7 sequestri sul centinaio di navi catturate in totale dai pirati in un anno. Negli ultimi tempi hanno inviato navi e soldati anche l'India e l'Iran, e perfino la pacifica Svizzera si è detta disposta a mandare i suoi soldati nell'area. Dall'inizio di dicembre nelle acque del Golfo incrociano anche le imbarcazioni della missione europea Atalanta. Scortano le navi del Programma Alimentare Mondiale con gli aiuti alla popolazione somala. A terra, infatti, la situazione è drammatica. Il governo non esiste, le milizie islamiche guadagnano terreno e le truppe etiopiche che le combattevano sono in ritirata. L'Unione Africana ha deciso di prolungare di 2 mesi il mandato delle sue forze di pace in Somalia, ma le mancano uomini e mezzi. L'ONU, però, dice che i tempi non sono maturi per una missione di pace dei caschi blu. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Ci spostiamo in altri luoghi dove la tensione resta alta, ma sai, più vicini a noi. In Grecia, dopo la mobilitazione studentesca iniziata il 6 dicembre scorso, dopo la morte di uno studente di 15 anni ucciso da un poliziotto. Ecco che cosa è successo oggi. Il furgone stava uscendo da una stazione di polizia in un quartiere periferico di Atene. I colpi sparati hanno centrato una ruota. Nessun poliziotto è rimasto ferito. L'attacco non è stato rivendicato e sull'accaduto indaga una squadra dell'antiterrorismo greco. Ovviamente i sospetti più forti ricadono sul movimento di mobilitazione della gioventù greca nato dopo la morte, avvenuta il 6 dicembre ad Atene, di un ragazzo di 15 anni ucciso da un poliziotto. Da quel momento sono stati condotti numerosi attacchi contro veicoli ed edifici della polizia, ma nessuna azione con armi da fuoco era stata finora segnalata. Eppure qualcosa in senso negativo si sta muovendo, perché andando in giro per siti e blog di ragazzi greci impegnati nella rivolta scopriamo che il movimento, almeno nelle frange più estreme, si sta armando. Su Vice Magazine, una sorta di diario di bordo della protesta, è pubblicato, senza tralasciare alcun dettaglio, un reportage fotografico in cui Mike, un fantomatico ragazzino di 15 anni che si professa vecchio anarchico, costruisce una bomba. Mike è all'interno del Politecnico, si fa aiutare da altri due amici, poi, viso incappucciato, lo si vede in azione mentre distrugge auto e furgoni. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è il momento della nostra finestra sul mondo arabo, che oggi ci porta in Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Immersa nel buio e minacciata dalla fame, la striscia di Gaza, dopo l'annuncio di Hamas di porre fine alla tregua, starebbe per essere invasa da Israele con un'operazione militare a valanga che prima dovrebbe spazzare via la jihad islamica e poi la stessa Hamas. È quanto emerge dalla lettura della stampa araba di oggi, che ricorda come i leader israeliani parlano per la prima volta di una guerra vera e non più di operazione militare. Al-Quds al-Arabi è convinto convinto che l'invasione è solo una questione di tempo. A ritardare il via alle operazioni sarebbe il tentativo di Israele di preparare l'opinione pubblica mondiale attraverso una vasta offensiva diplomatica internazionale. Ma a ricordare l'intransigenza del movimento estremista islamico ci pensa il giornale Falastin. Finché durerà l'embargo della striscia, afferma, non ci sarà nessuna proroga della tregua come stanno elemosinando alcuni. Radif Fatah Ali, GR 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura andiamo alla Camera per parlare di un omaggio a Michelangelo. A Roma è stata inaugurata questa mattina la mostra Michelangelo Giovane, il crocifisso ritrovato. Cristina Cidini, soprintendente del Polo Museale Fiorentino, ci spiega cosa sia questo crocifisso. Al microfono di Chiara Di Michele. Un numero significativo di grandi studiosi della scultura è convinto che siamo in presenza di un'opera di Michelangelo Giovane. Parliamo degli anni 1494-95 circa, quando Michelangelo, privo della protezione di Lorenzo il Magnifico, che era morto da 2 anni, lavorava in Santo Spirito. E proprio il Santo Spirito lasciò un crocifisso ligneo per l'altar maggiore. Crocifisso, benché piccolo, 41 cm per 41, ha caratteristiche nella costruzione del corpo di anatomia corretta, studiata evidentemente dal vero, del tutto in sintonia con lo stile di Michelangelo maturo e addirittura con dei presentimenti della sua opera più tarda come la Pietà di Firenze del Museo dell'Opera del Duomo di Santa Maria del Fiore. E, essendo una scultura lignea, è realizzato con degli accorgimenti tecnici che hanno anche permesso all'autore di introdurre un elemento non previsto in origine, un'inclinazione del capo molto sofferente e patetica, e questo vediamo, un Cristo delicato ma possente con una muscolatura sviluppata, un'ossatura robusta e una correttezza formale che ci convince appunto dell'appartenenza alla sfera di Michelangelo. E prima di chiudere, un breve riepilogo delle notizie di oggi. Nell'inchiesta di Napoli entra il nome di Di Pietro, ma è il figlio, rapporti ambigui con uno degli arrestati, dice la direzione antimafia, il leader dell'Italia dei Valori ai magistrati. Auguro buon lavoro. Attenzione alle biglietterie, nuovi voli cancellati. All'aeroporto di Fiumicino si scontano ancora le conseguenze delle proteste di ieri del personale Alitalia. Le buone notizie, poi le cattive. Scende ancora l'Euribor, sul quale si calcolano i mutui, arriva al 3,02%, ma calano anche le vendite al dettaglio, meno 0,7%. È pronta l'OPEC del metano, l'era del gas a buon mercato è finita, dice Putin al vertice dei paesi esportatori a Mosca. Chi sostituisce Ennio Morricone nel CDA dell'Opera di Roma? Bruno Vespa, la scelta di Bondi solleva la polemica. GR Extra Large, Alessio Maurizi, Simone Spezia, in studio è tutto per questa edizione, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Filippo Aureggi. Se volete potete scriverci extralarge@radio24.it oppure riascoltarci www.radio24.it. Il GR Extra Large torna domani alle 13. Adesso la linea va a Tempo di Sport. Il prossimo GR è alle 15. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.